Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il nostro obiettivo è molto chiaro. Dobbiamo evitare di far ripiombare il nostro paese in un lockdown generalizzato. La vita sociale e la vita economica ha ripreso a correre. Gli indici economici sono molto positivi. Sta crescendo la produzione industriale, stiamo recuperando terreno, dobbiamo continuare a correre. Allora, per preservare il tessuto produttivo, la nostra economia e tutelare al contempo il nostro obiettivo primario, la salute, dobbiamo adesso predisporci a rispettare queste regole. Avete sentito il Presidente del Consiglio Conte, oggi ufficiale, è arrivato il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio con queste nuove regole anticontagio che dice appunto comporteranno dei sacrifici, ma noi lo facciamo per affrontare tutti insieme con forza e attrezzati questa nuova fase. Rimane però fra le altre cose, intanto parleremo naturalmente delle misure principali contenute in questo DPCM e poi anche dei nodi che restano, il nodo dei trasporti pubblici locali per esempio, no? Col fatto che l'80% della capienza, a volte anche di più, potrebbe creare degli assembramenti molto pericolosi per quanto riguarda il contagio. E poi braccio di ferro per quanto riguarda la scuola tra le regioni e la ministra dell'istruzione Azzolina, perché le regioni chiedono a questo punto di rimandare a casa con la didattica a distanza i ragazzi e le ragazze delle superiori per evitare appunto che ingolfino i trasporti pubblici, ma la ministra Azzolina ha detto assolutamente no, dopo tanti sacrifici eccetera per rimettere in piedi la scuola, non ne voglio sapere. Tante cose quindi di cui parlare questa sera, tante cose complesse, cerchiamo di capirle meglio, poi tra l'altro come sempre insieme fra poco agli ospiti, però prima di tutto la sintesi della giornata e voi lo sapete potete commentare i fatti principali attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte che è lì per voi sempre giorno e notte, oppure il numero per WhatsApp che è 349-238-6666, 349-238-6666. Le nuove regole anti-Covid, stop alla movida, alle gite scolastiche e alle feste, niente calcetto e poche persone da invitare a casa. Il DPCM è in vigore da domani e Conte sottolinea sacrifici per evitare un nuovo lockdown. L'andamento del coronavirus in Italia, salgono i contagi ma a fronte di più tamponi, preoccupato il sindacato dei medici sulla tenuta degli ospedali. Scuola e trasporti, le regioni spingono per la didattica a distanza degli studenti delle superiori per non ingolfare i mezzi pubblici e ritengono irresponsabile il no della ministra Azzolina. Sport, anche Cristiano Ronaldo è positivo al coronavirus, tempesta Covid sul giro via due team. Partiamo quindi dal nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che entra in vigore da domani, mentre oggi si registra un nuovo aumento dei contagi da coronavirus. La curva epidemiologica sta risalendo, l'Italia è in condizioni migliori di altri paesi, ma non si può permettere nessuna distrazione. In conferenza stampa a Palazzo Chigi, il Premier Conte difende le nuove norme anti-Covid inserite nell'ultimo DPCM, misure che comporteranno ulteriori sacrifici, ma il nostro obiettivo è evitare di far piombare il paese in un lockdown generalizzato, dice il Presidente del Consiglio, che invita a comportamenti responsabili anche nelle abitazioni private. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase. Nel trasporto pubblico la situazione è critica, ammette Conte, che conferma invece la decisione di lasciare aperte le scuole, dove spiega che al momento non ci sono i presupposti per tornare alle lezioni a distanza. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Quello dei trasporti, avete sentito, è considerato una criticità nella diffusione dei contagi. A pensare sono studenti che usano i mezzi pubblici per andare a scuola. Per questo, come dicevo, le regioni spingono il governo verso la didattica a distanza delle scuole secondarie per alleggerire il numero dei passeggeri. Ma secondo la ministra Azzolina, in modo sbrigativo e irresponsabile, ha frapposto, hanno detto le regioni, un netto diniego. La ministra Azzolina dice che assolutamente i ragazzi devono andare a scuola in presenza. Sentiremo su questo, sul nodo dei trasporti, il presidente di Astra, che è l'associazione gestione datoriale del trasporto pubblico locale. Intanto i contagi aumentano anche se a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati e i medici avvertono il sistema regge, ma se i casi aumenteranno in modo esponenziale andrà in crisi in due mesi. I viaggi di Radio 24. Oggi il nostro viaggio nella campagna vaccinale contro l'influenza fa tappa nel Lazio, dove i medici di famiglia, pediatri e ASL hanno già incominciato l'erogazione del vaccino alle fasce a rischio. Il Lazio ha acquistato 2,4 milioni di dosi, cioè il doppio dello scorso anno, e ha riservato 100.000 dosi alle vendite in farmacia. Nel Lazio il 95% delle vaccinazioni anti-influenzali è storicamente somministrato dai medici di famiglia e l'adesione è sempre stata alta, ma quest'anno le previsioni sono di una richiesta ancora più elevata. Pierluigi Bartoletti, medico di medicina generale e vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Roma. La stragrande maggioranza dei colleghi ha ordinato vaccini per percentuali di circa 80-90% della popolazione a rischio e già adesso qualcuno mi sta dicendo che vorrebbero integrare, quelli che sono stati un po' più prudenti stanno integrando le dosi di vaccino aumentando le richieste. Dopo le polemiche sulla somministrazione dei vaccini in farmacia, prevista in un'ordinanza del governatore Zingaretti che ha trovato la netta opposizione dei camici bianchi, le dosi vendute in farmacia potrebbero essere somministrate in loco dalle USCAR, unità mobili con medici e infermieri a bordo. Ancora Bartoletti. Io le persone che vaccino le conosco tutte, quindi se io vaccino il nonno Ugo, che vaccino da 10 anni, quest'anno non avevo nessun problema perché già so che il nonno Ugo vaccino lo può fare, è un altro attivo laterale. Diverso è se vaccino uno sconosciuto, neanche da un punto di vista del rischio e della sicurezza. Quando io dico unità mobili va bene, però unità mobile rispetto al vaccino fatto in studio è peggiorativo, non è migliorativo. Diversa la posizione dei farmacisti che anche in prospettiva della futura e ben più vasta vaccinazione Covid potrebbero giocare un ruolo chiave sul territorio. Alfredo Procaccini, vicepresidente di Federfarma Roma. Bisogna girare questi ostacoli perché in Europa sono 16 le nazioni che consentono ai farmacisti di fare vaccini, con totale sgravio di impegno sia da parte del Servizio Sanitario Nazionale e con tante facilitazioni per i cittadini. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo per quanto riguarda le vaccinazioni antinfluenzali in Italia. Per quanto riguarda la sperimentazione del vaccino anti-Covid, a cui sta lavorando la Johnson & Johnson fra gli altri, questa sperimentazione del vaccino Johnson & Johnson è stata sospesa dopo che un volontario si è ammalato senza che gli esperti siano finora riusciti a trovare le cause. Intanto i contagi avanzano anche negli altri paesi europei. Il Belgio vede crescere i contagi del 79% in una settimana, del 68% i ricoveri. Allarmi ricoveri nelle terapie intensive a Parigi. Il presidente Macron studia una nuova stretta sul tavolo anche il coprifuoco nella capitale. Lo annuncerà eventualmente domani. Il sindaco di Londra, Kahn, annuncia una nuova stretta inevitabile. Poi lockdown parziale in Olanda. Chiudono bar e ristoranti, chiuderanno a partire da domani. In Russia, intanto, record di morti giornaliere da inizio pandemia, 244 che portano a un totale di 23.000 vittime, mentre si registrano quasi 14.000 nuove infezioni. Negli Stati Uniti invece c'è il ritorno del presidente americano Trump. In pubblico sono immune ora, mi sento forte, dice, vi bacerò tutti, bacerò le belle donne e tutti, un bacio grande e grosso, così davanti ai suoi sostenitori invisibili. Trump ha festeggiato la notizia del test negativo, il suo popolo lo ha ripagato cantando in coro Four More Years, ancora altri 4 anni. La reazione del candidato democratico Biden, ha detto Trump è un irresponsabile, ha mentito, non ha detto la verità sulla pandemia e non ha un piano per combatterla. Il mio piano, ha detto, è test, tracciamento, mascherine, non politicizzare la corsa al vaccino, distribuirlo in maniera sicura ed equa. Di nuovo in Italia, niente rinvii sul Recovery Fund. Questo è il monito del presidente del Consiglio Conte al Senato in vista del Consiglio Europeo. No al rinvii del Recovery Fund, è un'occasione senza precedenti per fronteggiare la crisi scatenata dal coronavirus. L'Europa si è unita, lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre. Tutti gli stati devono agire con lealtà, puntualizza Conte. È un obbligo morale per non dimenticare le vittime e offrire un futuro alle prossime generazioni. Oltre al Recovery Plan, il governo è al lavoro anche sulla manovra di bilancio. Il prossimo anno, assicura il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, le tasse non aumentano. aumenteranno, ma si ridurranno perché, spiega, ci sarà a regime per 12 mesi la riduzione sostanziale dell'IRPEF grazie all'estensione della riduzione del cuneo fiscale alla fiscalità di vantaggio per il Sud. La riforma del fisco si farà nei prossimi 3 anni, ma a partire dal 2021, annuncia Gualtieri, ci sarà l'assegno unico per i figli. La riforma sarà introdotta attraverso una legge delega che si raccorderà all'altra riforma ad essa strettamente connessa, che intendiamo anche adottare già a partire dal 2021, la legge delega che riguarda appunto l'introduzione dell'assegno unico universale per i figli. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Secondo le previsioni d'autunno del Fondo Monetario Internazionale, il PIL italiano, il prodotto interno lordo, la ricchezza italiana, crollerà quest'anno del 10,6%, un dato peggiore di quello previsto dal governo e da Confindustria. Il PIL mondiale calerà quest'anno del 4,4% secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Un po' meglio del meno 5,2 stimato in giugno, ma per l'FMI quella portata dal Covid resta la peggiore crisi economica dalla Seconda Guerra Mondiale. Per l'eurozona previsto meno 8,3% quest'anno con rimbalzo del 5,2% nel 2021 e ancora peggio sarà per l'Italia. L'economia scenderà del 10,8% nel 2020, un po' meglio delle stime FMI di giugno, meno 12,8%, ma peggio del meno 9% calcolato dal governo e più vicino al meno 10% delle stime Confindustria. Stime FMI peggiori anche per il 2021, più 5,2% contro il più 6% del governo. In Europa fanno meglio la Germania, meno 6% e poi più 4,2% e la Francia, meno 9,8% e poi più 6%, peggio la Spagna. Migliorano le previsioni per gli Stati Uniti, un calo del PIL del 4,3% contro il meno 8% di giugno, seguito da un rimbalzo del 3,1% l'anno prossimo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca: è stata arrestata dalla Guardia di Finanza su mandato di cattura internazionale emesso dal Vaticano Cecilia Marogna, la donna che compare nell'indagine sull'ex numero 2 della Segreteria di Stato Vaticana, cioè il cardinale Angelo Becciu. Per chiudere lo sport, che con la pandemia fa i conti, anche lo sport professionistico, dal Giro d'Italia alla stella più luminosa del calcio mondiale, Cristiano Ronaldo, giallo sullo che è risultato positivo, giallo sullo spostamento dell'allenamento e della conferenza stampa dell'Italia alla vigilia della partita di Nations League con l'Olanda, prevista inizialmente alle 18, la conferenza è stata spostata di 2 ore, quindi è slittata alle 20.45, ci sarebbero 2 tamponi dall'esito incerto tra gli azzurri, è finita invece la quarantena per i calciatori del Napoli, erano in isolamento dal 6 ottobre. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, lo slovacco Peter Sagan ha vinto per distacco la 10ª tappa del 103° Giro d'Italia di ciclismo da Lanciano Chieti a Tortoreto, in provincia di Teramo, lunga 177 km. Il portoghese João Almeida ha conservato ancora una volta la maglia rosa di leader della classifica generale. Poi dello sport e del Covid, che colpisce naturalmente anche lo sport professionistico, parleremo nel corso di questa puntata, come di altri molti temi, ma dopo la viabilità per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure WhatsApp al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le più importanti, come sempre, le avete sentite nella sintesi della giornata. Avevo raccontato appunto le notizie principali dall'Italia e dall'estero e adesso con gli ospiti invece addentriamoci in alcuni temi in primissimo piano. Oggi c'è Alvise, per esempio, al numero per WhatsApp 349-238-6666, che commenta questo braccio di ferro in atto proprio in queste ore tra le regioni e la ministra dell'istruzione Azzolina. Scrive Alvise: per una volta sono d'accordo con Azzolina, non è lei a essere irresponsabile, come invece dicono le regioni, sono gli amministratori locali, soprattutto Fontana, dice lui, presidente della Regione Lombardia, a essere stati incapaci di sostenere il trasporto pubblico, treni in primis, è ora di investire di più. Poi ne parleremo con il presidente dell'ASTA, dell'associazione che riunisce tutte le aziende datoriali del settore del trasporto pubblico locale, che hanno lanciato l'allarme perché dicono: se qui riducono la possibilità di riempire all'80% i mezzi di trasporto, come facciamo? Qui servono risorse, servono altri mezzi, altrimenti non riusciamo a venire incontro alle esigenze di tutti. E siccome la richiesta delle regioni, come vi dicevo all'inizio, è quella di rimandare le ragazze e i ragazzi delle superiori a casa a fare didattica a distanza, e la ministra Azzolina ha detto e ha ribadito anche in serata che questa cosa assolutamente non la si fa, non la si può fare, non ci sono le condizioni, la scuola deve andare avanti. E cominciamo allora con questi temi così complessi. La curva epidemiologica sta risalendo e in tutta Europa. L'Italia è una condizione migliore, ma non ci possiamo permettere nessuna distrazione. È per questo che variamo queste nuove misure. Comporteranno dei sacrifici ulteriori, però siamo convinti che con questi sacrifici potremo adeguatamente, sempre col criterio quindi di adeguatezza e proporzionalità, affrontare questa nuova fase. Lo ha spiegato oggi il presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa che ha tenuto appunto in giornata per presentare le principali misure anti-Covid contenute in questo nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, per l'appunto l'acronimo è DPCM, e che entrerà in vigore da domani. Quindi l'obiettivo del governo, come ha detto Conte, è chiaro: evitare di far ripiombare tutto il paese in un generalizzato lockdown e tutelare invece l'economia e la salute. La curva, ha detto, sta risalendo, non bisogna abbassare l'attenzione, alcuni sacrifici sono necessari e ci permetteranno di affrontare anche questa fase. Quindi quali sono le misure più importanti di questo DPCM? Dico molto, molto sinteticamente: stop alla movida, alle gite scolastiche, alle feste private e pubbliche, alta al calcetto, in casa raccomandazione bisogna essere pochi. Ma adesso ce lo spiega molto meglio il costituzionalista, che non ha bisogno certamente di presentazioni, che è Alfonso Celotto, che ritorna ospite graditissimo. Buonasera professor Celotto. Grazie, mi fa piacere di questo essere ospite quasi quotidiano, ma ormai qui ogni giorno c'è da spiegare qualcosa. Ha bisogno di delucidarci, insomma, noi abbiamo bisogno delle sue spiegazioni e di addentrarci dentro queste misure. Tra l'altro, allora, dicevo, sono in vigore da domani e fino al 13 novembre, quindi praticamente un mese per il momento. Per un altro mese, sono misure che irrigidiscono tutta una serie di cose che già avevamo, soprattutto la mascherina va portata sempre nei luoghi privati e anche all'aperto, salvo situazioni di isolamento, questo è importante. È fatta eccezione per l'attività sportiva, per i minori di 6 anni e per i disabili. E poi forse la novità più importante è quella del divieto alle feste, no? Perché in queste ultime settimane si è spesso detto battesimi, comunioni, matrimoni, quindi questo limite massimo 30 persone alle cerimonie nei luoghi pubblici, anche quindi nei ristoranti, e poi le feste private. Sulle feste private c'è questo limite di evitare le feste private ed è fortemente raccomandato ricevere al massimo in casa 6 persone. Questo è un punto importante. Il DPCM, su cui ci sono state tante polemiche, soprattutto dall'opposizione. Sentiamo per esempio Salvini cosa dice. Dice: queste raccomandazioni vuol dire che spingono a delazione, cioè a fare la spia rispetto al vicino, a dire e chiamare: guardate che qui il mio vicino ha invitato tot persone. Sentiamo Salvini. Penso che multare le bariste in pausa sigaretta sia demenziale e cercare, come in Unione Sovietica, i delatori condominiali per segnalare se al quinto piano è entrato il settimo cugino possa andar bene in Venezuela e in Corea del Nord, non in un paese libero come è l'Italia. Quindi un conto è sanzionare chi fa il furbo appositamente, però andare a inseguire le bariste in pausa sigaretta o le feste di compleanno col settimo bambino mi sembra veramente irrispettoso. Che ne pensa Celotto, da costituzionalista quale lei è? Allora io penso che questo è un momento in cui bisogna applicare il buon senso e la ragionevolezza, cioè noi dobbiamo cercare di essere un po' più attenti, fare meno cose per cercare di evitare la diffusione del contagio senza fare un nuovo lockdown che sarebbe una tragedia sociale ed economica. Anche perché, mi scusi Celotto, fra l'altro Conte, e ce l'abbiamo anche il passaggio, ha ribadito certamente: noi non manderemo la polizia a casa, non è neanche possibile, poi ne parleremo con il portavoce dei funzionari di polizia, non può farlo, però è una raccomandazione, nel senso, come se il governo ci assicurasse che il rischio è grosso se la casa la fate invadere da persone che non sono conviventi, ma è una raccomandazione, quindi non è un... È strano leggere in un atto normativo, in un atto legislativo, è fortemente raccomandato di evitare feste, ma perché normalmente le regole sono prescrittive, come diciamo noi, obbligatorie, no, è vietato fare. Invece, non potendo fare controlli in casa, perché servirebbe l'autorizzazione del giudice, e non potendo quindi imporre alle persone, si cerca di parlare al buon senso. Cioè, guarda, se devi invitare 10 persone, aspetta un paio di mesi quando le cose staranno meglio. Sembra la raccomandazione della nonna, no? E invece è proprio questa, cioè in questa fase noi dobbiamo avere il buon senso di distanza, mascherine e cercare di limitare i comportamenti. In questo modo facciamo tutti meglio e secondo me anche la politica, maggioranza e opposizione, dovrebbero collaborare in questa fase senza troppe polemiche per cercare di superare questo momento difficile senza fare lockdown. D'altra parte, se stiamo meglio degli altri paesi è proprio perché siamo stati più bravi come paesi. Certo. E quindi è meglio conservarlo e farsi un aperitivo di meno, no? Celotto, poi ci sono discoteche chiuse e sentiamo sui bar e ristoranti che cosa ha detto Conte. Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie dovranno chiudere a mezzanotte e dalle ore 21 c'è un'ulteriore limitazione. Si potrà solo consumare ai tavoli, dentro o fuori che siano, non si potrà più sostare davanti a questi locali consumando in piedi cibi o bevande. Dobbiamo evitare assolutamente assembramenti. Quindi i ristoranti e tutti i locali che servono al tavolo chiudono a mezzanotte, gli altri invece alle 21. Celotto, invece per quanto riguarda lo sport, sentiamo anche questo passaggio di Conte. Non saranno più consentite le partite ad esempio di calcetto, di basket che tanto ci piacciono. Lo sport di contatto a livello amatoriale non sarà più consentito, mentre invece proseguirà lo sport di contatto tra società professionistiche o dilettantistiche che ovviamente rispetteranno i protocolli e le linee guida. Quindi la differenza, Celotto, almeno nelle intenzioni del governo, è quella che finché si gioca tra amici, tra amiche, eccetera, il rischio c'è perché non ci sono i protocolli, i controlli, eccetera, mentre a livello amatoriale, dilettantistico e professionistico questi controlli ci sono e quindi per il momento vanno avanti. Certo, è quello che stiamo vedendo con le squadre di calcio, cioè stanno fioccando i positivi perché le squadre di calcio hanno il doppio tampone settimanale e quindi in questa fase in cui i positivi stanno aumentando tanto, spesso asintomatici per fortuna, loro sono molto controllati, invece nella partitella ufficio del secondo piano contro ufficio del terzo piano e lì siamo meno controllati, uno sport del genere di contatto, basket, calcetto può diffondere il virus inutilmente e quindi la partita amatoriale per il momento è vietata. Bene, quindi tutto questo che ci ha riassunto così in modo chiaro e approfondito il professor Celotto in vigore fino al 13 novembre. Poi ci dovremo riaggiornare, professor Celotto. Sì, da domani, cioè stasera è l'ultima sera delle follie. Ecco. No, scherzo. Non è il caso, siamo prudenti fin da oggi. Però per un mese saranno queste le misure, molte di queste misure le regioni possono incrementarle o renderle più flessibili a seconda dei casi e dei contagi e speriamo che il 13 novembre riusciamo a tenere una curva in discesa e quindi ad alleggerirle queste misure. Speriamo, ma insomma navigheremo a vista. Grazie professor Celotto e a presto. Grazie, sarà un inverno complicato, lo sappiamo tutti. Purtroppo. Sì. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase. Ecco, quindi l'ha sottolineato il Presidente del Consiglio Conte, ma su questo voglio sentire grande ritorno di Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Eccoci qua, dottor Laquaniti. Le grandi cose sono tutt'altro. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Quindi non busserete alle porte delle persone che potrebbero avere più persone in casa non conviventi, no, anche se è una forte raccomandazione perché poi i rischi li corrono le persone dentro casa e poi quando vanno fuori eventualmente a portare il virus? Assolutamente no, sarebbe stato anche molto difficile, come diceva benissimo l'ospite di prima, anche da un punto di vista giuridico, immaginare delle forze di polizia che facevano dei controlli domicilio per domicilio, quindi quelle che sono anche le giuste in certo senso battute che girano su internet e sui social non trovano per fortuna riscontro nella realtà. Meno male. L'abbiamo detto in altre occasioni, lo stato di polizia non è uno stato che i poliziotti per primi vogliono. Meno male. E dottor Laquaniti, però chi fa i controlli? Cioè divieto di assembramento davanti ai locali, poi non giocare a calcetto e tutte le altre cose che abbiamo elencato. No? Chi va a controllare alle cerimonie religiose che siano o anche laiche, che siano matrimoni o comunioni, insomma, che non ci siano più di tot persone. Chi sarà un'attività che apparterrà a tutte le forze dell'ordine, a tutte le forze di polizia, sarà un'attività che rientrerà anche nell'ambito degli ordinari controlli di servizio del territorio. È normale che le pattuglie che girano per la città, nel momento in cui dovessero trovare assembramenti di persone o situazioni incongrue rispetto al dettato normativo, dovranno intervenire e laddove ci dovessero essere delle situazioni di non legalità, intervenire con la sanzione amministrativa, che lo ricordiamo è da 400 a 1000 euro e può essere ridotto a 280 in caso di pagamento immediato. È chiaro che saranno controlli fatti con l'intelligenza, con il buon senso che deve sempre ispirare l'operato di tutti. È una prova straordinaria perché mai era stato rivolta non solo un obbligo, ma anche, come si diceva prima, una forte raccomandazione a 60 milioni di persone. Se mi permette la metafora, brevissima, sì, è un po' quello che succedeva quando io ero piccolo. Se da piccolo ricevevo un brutto voto, mio papà mi metteva in punizione. Quando sono arrivato al liceo ed ero grande ed ero adulto, mio padre mi raccomandava di studiare, perché poi la punizione non era portata da lui, era portata dal fatto che rischiavo di essere bocciato. Proprio come in questo caso, la raccomandazione serve a dire agli italiani: occhio, perché non sarà lo Stato a sanzionare quegli aspetti dove vi ho dato una raccomandazione, ma la sanzione sarà rappresentata dagli effetti devastanti della diffusione del virus. Già, con lei comunque il percorso ha avuto successo di suo padre, della sua famiglia, quindi va benissimo, insomma, ci sembra che in l'esempio... In qualche modo ce la siamo cavata. Dottor Laguariti, per chiudere, poi siccome parlerò anche della criticità dei trasporti pubblico locale, il Comitato Tecnico Scientifico oggi ha detto ci vogliono assolutamente dei controlli, che qualcuno controlli poi che non ci siano queste folle dentro i tram, le metropolitane. Anche lì, chi controllerà? Lei sa già, dottor Laguariti, se sarete voi, allora, forze della polizia. Faranno, come posso dire, per quanto riguarda la presenza di troppe persone in un autobus, sarà facilmente accessibile, immagino, soprattutto alle polizie locali quando girano per le città. Ma quello che è il senso, secondo me, di questa norma, così come è stato detto molto bene prima, è che ci sia una sorta di controllo sociale. A un certo punto, se la capienza è raggiunta, bene farà l'autista a non consentire più l'accesso a ulteriori passeggeri sugli autobus. Io ho potuto verificare di persona in diverse città come per esempio anche i tassisti siano estremamente ligi nell'accettare il numero massimo di persone all'interno del loro taxi. Ci vuole, come posso dire, non il controllo di polizia, ci vuole un controllo sociale dato dalla responsabilità di ognuno e di ciascuno. Bene, come dice il Presidente del Consiglio Conte, andiamo avanti tutti uniti perché solo in questo modo ce la possiamo fare. Grazie anche al dottor Girolamo Laguariti, ci aggiorneremo anche grazie con lei, insomma, inevitabilmente. Grazie e buon lavoro. A presto, grazie. Ora invece la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice esimia del Sole 24 Ore, cara Barbara. Ciao, buonasera a tutti. Allora, Conte ha detto, puntiamo a evitare il lockdown, a tutelare l'economia, la salute, serve la collaborazione di tutte le forze politiche. Sentiamolo anche questo appello dove dice i cittadini siano tutti uniti. Ora ovviamente chiediamo lo sforzo anche a tutti gli italiani. Dobbiamo continuare con quel senso di responsabilità, con quell'atteggiamento prudente, con quelle precauzioni, a rispetto delle precauzioni di queste regole, perché questa è stata la nostra forza. Io ho dichiarato sempre che qui non c'è il merito del governo, di un singolo ministro, del Presidente del Consiglio, ma il merito è di tutta la comunità nazionale che è uscita dalla fase più dura con senso di solidarietà, coesione e di responsabilità. Dobbiamo recuperare quel senso. Però Barbara, Salvini, leader della Lega, Meloni, Fratelli d'Italia continuano a criticare il governo, dice non ci coinvolge, noi siamo pronti a collaborare. Cosa pensi di questo rapporto maggioranza-opposizione? Ma allora penso che la collaborazione ovviamente sarebbe auspicabile e quanto mai opportuna in una situazione qual è quella attuale. Penso anche però che è molto difficile perché poi ognuno gioca una propria partita, tanto il Presidente del Consiglio, le forze e i leader della maggioranza che lo appoggiano, tanto quelli d'opposizione. È vero che l'opposizione manifesta disponibilità al confronto e al dialogo e alla stessa cosa ha detto anche oggi in aula il Presidente del Consiglio, ma poi concretamente in realtà tutta questa vicinanza non la vediamo realizzarsi, insomma. Per esempio l'opposizione si astiene sulla linea guida del recovery plan e quindi, come dire, non vota contro ma neanche a favore, e lo stesso probabilmente farà anche sullo scostamento di bilancio, che ricordiamo sono i soldi in più che vengono autorizzati, cioè il Parlamento autorizza il governo a fare più deficit, a prendere più soldi pubblici e che servono per finanziare la cassa integrazione, i vari bonus che abbiamo. Quindi dici, se metti un po' i bastoni tra le ruote su questi temi, a te viene difficile pensare che ci voglia essere un'effettiva collaborazione? Sì, dall'altra parte però dico anche che è vero che secondo me le forze di opposizione, cioè di centrodestra, hanno ragione quando sostengono, insomma, abbiamo presentato tante proposte al governo, alla maggioranza, e di queste ne sono state accolte pochissime. Sentiamo quindi Salvini su questo, Barbara, sentiamo. Vogliamo collaborare, vogliamo partecipare. Non si può non sapere, le aziende, le famiglie, i sindaci, i governatori non sanno nulla. Il governo non rappresenta due partiti, il governo rappresenta 60 milioni di italiani. Che ci coinvolga, che ci ascolti, ma che ascolti le imprese, ascolti i sindacati, ascolti gli insegnanti, che ascolti. Barbara, abbiamo ancora un minuto e mezzo, voglio vedere delle risposte stentorie, lapidari da parte tua. Ecco, per esempio, sul nodo che mette insieme scuola e trasporti, sai che le regioni stanno chiedendo, per non appunto affollare troppo i trasporti, stanno chiedendo all'amministrazione Azzolina di fare di nuovo didattica a distanza per quanto riguarda ragazze e ragazzi delle scuole superiori. Azzolina ha detto assolutamente no. Allora ti chiedo due cose. Uno, per quanto riguarda i trasporti, effettivamente il governo forse non si poteva organizzare prima sapendo quello che sarebbe successo a questo punto con questa seconda ondata. L'altra cosa è, si è tanto sparato naturalmente in modo simbolico contro il governo, in particolare la ministra Azzolina è stata al centro di una specie di linciaggio perché non partiva la scuola. Adesso che è partita, le regioni chiedono di rimandare le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori a casa per la didattica a distanza. Dimmi proprio in modo sintetico su uno e l'altro tema cosa ne pensi. Sì, la cosa che mi viene da dire è che paghiamo anche sulla gestione, sulla questione, sul fronte trasporti, la mala gestione di decenni, che non puoi pensare di recuperare in pochi mesi, neanche in presenza di soldi. Questa è la cosa, perché le amministrazioni locali chiedono soldi, ma pensiamo soltanto al fatto che devi fare una gara per comprare gli autobus, e poi i controllori non ci sono più. Chi è che controlla poi che nei trasporti davvero ci sia l'80, il 50, il 70% di capienza? Nessuno, perché non ci sono stati mandati via. Abbiamo riempito le società di trasporto di impiegati e dirigenti molto spesso raccomandati, e non ci sono non più di chi, insomma, deve essere sul campo. Barbara, la scuola tu la vedi bene o la vedi male? Poi ci dobbiamo lasciare questo fatto di riportare i ragazzi. Io la vedo bene perché ho un'estrema fiducia nei ragazzi, che mi sembrano molto più responsabili degli adulti. Il problema non sono le scuole, il problema è quello che accade fuori dalle scuole. Ognuno di noi, cara Roberta, girando nelle nostre città bellissime, può vedere che i ragazzi anche all'uscita di scuola hanno le mascherine. In classe hanno le mascherine, ma quando vanno poi gli stessi ragazzi nei locali, girano nelle piazze, ma anche girando nelle piazze, cioè Roma, ci sono alcune zone che sono pieni di ragazzi privi di qualsiasi tipo e che si di passa, protezione. Parlano addosso, ridono e fanno. Quindi è inutile pensare alle scuole quando poi non... Ecco, mi piacerebbe vedere un po' più di controlli che invece fuori non si vedono. E infatti ne parlavamo proprio con la Quanita e cercheremo di capire se questi controlli si faranno o meno. Staremo a vedere. Grazie Barbara Fiammeri, ben presto. Arrivederci, buon lavoro. Ciao. Breve pausa di riflessione, torno ratta come la folgore. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Stiamo verificando che nell'ambito della scuola le cose stanno andando abbastanza bene, lo diciamo incrociando le dita, mentre invece l'evoluzione peggiore è segnata in questo momento nell'ambito delle relazioni familiari e amicali. È per questo che abbiamo introdotto misure mirate. Vogliamo scongiurare un lockdown generalizzato. La scuola, ha detto il Presidente del Consiglio Conte sempre in questa conferenza stampa di oggi in cui ha illustrato le misure principali del DPCM, ha detto va piuttosto bene, però come vi dicevo prima è in queste ore oggetto la scuola di un braccio di ferro serrato tra le regioni che vorrebbero che appunto le studentesse, gli studenti delle superiori tornassero a fare didattica a distanza per evitare questi assembramenti nei mezzi pubblici. Abbiamo visto foto, video nelle metropolitane, nei tram, nei pullman, insomma ammassati i ragazzi, e dall'altra però l'amministrazione Lina che dice non possiamo sacrificare gli studenti per i problemi del trasporto pubblico. Allora ne voglio parlare con Antonello Giannelli, che è presidente dell'Associazione Nazionale dei Prestiti. Cosa ne pensa Giannelli? Buonasera professore. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Come la vedi, insomma, tra queste due opposte fazioni così contrapposte? Ma guardi, io sono sicuramente sulla posizione espressa dalla ministra Azzolina e dal Presidente del Consiglio. A scuola le regole le stiamo rispettando e non ci sono contagi sul luogo scolastico. Per cui non vedo sinceramente la ragione di questa proposta, né d'altronde il fatto che i trasporti possano incontrare delle difficoltà può essere una buona ragione per tenere gli studenti a casa. Per mesi abbiamo discusso sulla didattica a distanza, sulle difficoltà che questa creava. Io ritengo che sia un sistema valido se circoscritto, se utilizzato in modiche quantità, diciamo così, ma la scuola è in presenza. Non possiamo pensare di sostituire tout court la scuola in presenza, la didattica in presenza con quella a distanza soltanto per difficoltà provenienti dall'esterno. Quindi io credo e chiedo che ci si organizzi per far sì che i ragazzi possano arrivare a scuola utilizzando i mezzi pubblici come hanno sempre fatto, magari scaglionati su un paio di orari. Questo potrebbe è per esempio l'ipotesi che fa il presidente dei sindaci De Caro, che è anche sindaco di Bari, che dice una possibile soluzione potrebbe essere quella di scaglionare l'ingresso dei ragazzi a scuola. Secondo lei potrebbe essere una cosa complessa da organizzare, professor Giannelli? Guardi, sicuramente è meglio avere un orario unico, però se non ci sono alternative, le scuole sono disponibili a farlo, c'è chi l'ha già fatto. Quindi è una possibilità, è una soluzione. Si possono prevedere due orari di ingresso a una distanza di un'ora, e in questo però deve essere garantito l'arrivo dei ragazzi a scuola e ovviamente il loro prelievo all'uscita. Sentiamo anche Conte, il Presidente del Consiglio, che cosa ha detto proprio sulla didattica a distanza. Dai riscontri che abbiamo, le condizioni di sicurezza sin qui garantite si stanno rivelando efficaci, però dobbiamo stare attenti a tutto quello che ruota anche intorno alla scuola, prima, dopo la scuola, incontri poi nelle abitazioni private, semmai per un party o anche solo per studiare, ma poi per distrarsi, eccetera. Quindi faremo di tutto per proseguire in questa direzione. Ecco perché non c'erano i presupposti e non ci sono attualmente i presupposti per tornare, prefigurare, ipotizzare una didattica a distanza. Quindi finora, insomma, governo e soprattutto Presidente del Consiglio e Ministra Azzolina compatti su questa posizione. Vedo che anche lei, Presidente dei Presidi, Antonello Giannelli, è appunto per la presenza fisica dei ragazzi e delle ragazze a scuola, anche perché, come dice lei, la stessa Ministra Azzolina ha detto i numeri e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. Si diceva anche prima che magari bisogna più controllare fuori che non dentro la scuola. Presidente Giannelli, vediamo come procede, insomma, questo, diciamo, contrasto tra la ministra da una parte e le regioni dall'altro. Per il momento i ragazzi comunque rimangono a scuola, abbiamo sentito anche dalla voce del Presidente del Consiglio Conte. Grazie professor Giannelli e buon lavoro. Grazie a lei, buonasera. Grazie. Grazie, buonasera. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Vedo adesso questo messaggio, Roberto Giordano, sempre con voi, di un'ascoltatrice, Antonella, se non sbaglio, no, non è Antonella, era un'altra. Comunque lei dice, buonasera, a proposito dello stop alle gite scolastiche dichiarate nel DPCM, volevo precisare che non sono mai iniziate, facendo perdere mesi di lavoro a guide, operatori didattici come la sottoscritta, ma effettivamente appunto questo DPCM prolunga alcune misure anti-Covid e poi su altre, diciamo, restringe un po' il campo, ci sono delle misure più restrittive rispetto a quelle poi più ampliative che invece c'erano state con l'inizio dell'estate, purtroppo, inevitabilmente. E in tutto questo contesto un'emergenza sono anche appunto i trasporti, come si diceva anche prima parlando di scuola, no? Abbiamo visto tutte le immagini quotidiane che raccontano res, assembramenti negli autobus, nelle metropolitane, e quindi cresce la pressione da parte degli enti locali affinché si riduca la capienza dei mezzi, che attualmente è all'80%, cioè si possono riempire i mezzi pubblici sino all'80%. Però dall'altra ci sono le associazioni datoriali dei mezzi di trasporto, del trasporto pubblico locale, che dicono: come facciamo a ridurre ulteriormente la capienza? Abbiamo bisogno di più risorse per mettere in campo più mezzi pubblici. E l'allarme è lanciato da Andrea Gibelli, presidente di Astra, associazione trasporti, associazione datoriale nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia. Buonasera Gibelli. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei. Quindi il vostro timore qual è in questo momento? La cosa che ci interessa di più è la tutela della salute di chi trasportiamo. Abbiamo fatto i nostri le disposizioni che il Comitato Tecnico Scientifico ha dato al governo e che ha negoziato con le regioni a settembre, stabilendo che si viaggiava in sicurezza con l'80% della capienza, l'uso della mascherina, l'apertura e la chiusura delle porte alle fermate per il ricambio d'aria e le sanificazioni che continuiamo a fare. La settimana scorsa è emerso, diciamo, un dubbio su questi aspetti di natura scientifica. Noi facciamo un lavoro diverso di quello del medico, quindi ci attendiamo delle indicazioni. È chiaro che se la scienza ha un ripensamento, le ricadute le abbiamo denunciate nei numeri che abbiamo pubblicato oggi. Però Gibelli, voi dite, appunto come spiegavo io così molto sinteticamente all'inizio, se c'è una riduzione della capienza dei mezzi, che ora è l'80%, questo porterebbe il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate e alle stazioni, perché meno gente può salire sui mezzi e quindi si accumulano tutti appunto alle paline, alle fermate, alle stazioni. E quindi se ci fosse per esempio una capienza dei mezzi pubblici al 50%, ogni giorno che cosa succederebbe? Che tante persone rimarrebbero a terra, Gibelli? Beh, questo è inevitabile e non risolverebbe il problema, perché l'esperienza empirica dimostra che laddove viene in qualche modo controllato l'affluenza a bordo mezzi, la gente è obbligata ad aspettare il mezzo pubblico successivo e quindi gli assembramenti in qualche modo si formano ugualmente a terra, e questo non risolve il problema. Noi abbiamo avanzato una serie di proposte da mesi che purtroppo non sono state raccolte, se non in parte. Qual è la principale, Gibelli, se dovesse dire, la più importante delle vostre richieste? Adesso in termini emergenziali, a tempo zero, l'unica possibilità praticabile è quella di definire un fondo straordinario per gli affidamenti ai privati, in modo da sfruttare la flotta degli autobus, quelli del gran turismo, da affiancarli al trasporto pubblico locale. E su questo voi avevate già fatto la proposta, per il momento il governo non vi ha dato risposte su questo aspetto? No, ha stanziato una cifra su questo capitolo che riguarda, diciamo, la possibilità di usare i subaffidamenti, però questa misura, diciamo, va estesa in una dimensione che oggi non corrisponde alle esigenze che in qualche modo sono state in realtà messe in discussione. Perché, se mi consente, io continuo a credere che viaggiare all'80% sui mezzi pubblici è stata una valutazione fatta in termini scientificamente rilevanti, solo che oggi c'è una spicosi che in qualche modo porta la gente ad immaginare uno stato di sicurezza compromesso dal fatto che purtroppo si sente tutto il contrario di tutto, e le posso testimoniare che in alcune circostanze, addirittura stando sotto il 50%, le fotografie pubblicate in alcune realtà online dimostravano empiricamente un riempimento che di fatto non c'era, perché era più la paura percepita che quella reale, se sono vere le informazioni che applichiamo. Quindi da parte sua lei dice, secondo lei è più una percezione degli utenti che non un effettivo ammassamento, assembramento. Comunque il Presidente del Consiglio Conte ha detto sui trasporti, ha detto oggi, la situazione è critica, monitoriamo, perché al di là degli sforzi del contingentamento è chiaro che ci sono momenti di affollamento, dobbiamo evitarli, continueremo a monitorare la situazione, a investire per garantire la sicurezza. Speriamo appunto che ci sia questo investimento e questo aiuto per rendere più efficienti e più sicuri i mezzi di trasporto pubblico locale. Grazie intanto Andrea Gibelli, grazie e buon lavoro. Ci aggiorniamo anche con lei naturalmente nei prossimi giorni. Grazie. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Invece con il nostro Dario Ricci puntiamo il riflettori sullo sport, che insomma diciamo parimenti con la società, come vogliamo dire, ordinaria, normale, Dario, è contagiata dal Covid, insomma personaggio sì. Simbolo dello sport, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, oggi è risultato positivo. Sì, sì, in questo caso Ronaldo è il simbolo di uno sport, non solo il calcio, che fa i conti con la pandemia e che prova ad andare avanti malgrado tutto, no Roberta? Ronaldo è risultato positivo nel ritiro del Portogallo, domani i portoghesi giocheranno a Lisbona contro la Svezia in Nations League, positivo e asintomatico, quindi completerà la sua quarantena per il momento in Portogallo, la continuerà, poi staremo a vedere il responso dei tamponi, a rassicurare un po' tutti, anche in modo scherzoso, Giorgio Chiellini, il capitano dell'Italia, che domani a sua volta affronterà a Bergamo l'Olanda, sempre per la Nations League, che in queste ore ha vissuto un allarme, per fortuna rientrato, per una falsa positività di El Shaarawy. Bene, Chiellini ha detto: ho sentito Ronaldo, sta bene, sta prendendo il sole, quindi insomma, tutto si fa sommato, bello come sempre, insomma. Ecco, esattamente. Otto positività anche al Giro d'Italia, con il giro di due squadre, ma anche in questo caso la corsa continua la sua marcia verso il traguardo di Milano del 25 ottobre. Insomma, ecco, corsa ostacoli un po' per tutti, ma credo sia legittimo provare comunque ad andare avanti, adeguando di volta in volta protocolli e chissà, chiaro, magari anche calendari, faremo a vedere. Inevitabilmente. Grazie Dario Ricci. Grazie a te. Ciao caro Dario, ci sentiamo brevemente alle 22. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.